perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Due fermati per terrorismo a Bari. Secondo gli inquirenti preparavano attentati in Italia. Avrebbero voluto colpire Roma e Londra. A Monaco di Baviera un uomo aggredisce a coltellate quattro persone urlando Allah è grande. Una vittima, tre feriti. I furbetti degli sgravi sulle assunzioni saranno colpiti, lo dice il ministro del lavoro, Poletti. Tra 'ndrangheta e massoneria una rete per governare Reggio Calabria, sette fermi, tra loro un ex deputato già condannato. Inquinati nelle acque, si parla di 60.000 veneti contaminati, la regione chiede 200 milioni di euro al governo. In fiamme la casa di famiglia del sindaco di Licata, in lotta contro l'abusivismo, riflette sulle dimissioni. A Sanremo si organizza la visita alla moschea, ma 11 genitori dicono no. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, il 349-238-6666 per i vostri sms, c'è anche il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno per ricevere i nostri aggiornamenti. Oggi siamo in diretta da Cibus, la fiera dell'agroalimentare che si svolge a Parma e siamo al padiglione 7 se ci volete venire a trovare. In apertura, dunque, oggi ci occupiamo di terrorismo e degli arresti di questa mattina di presunti jihadisti avvenuti a Bari. Fabrizia Ralla, buongiorno. Sì, buongiorno. Erano pronti a colpire nel mirino dei due afghani fermati dai carabinieri a Bari. C'erano centri commerciali, porti e aeroporti in Italia e in Inghilterra. Si tratta di Hakim Naziri, accusato di terrorismo internazionale, residente nel CARA di Bari Palese, e Gulistan Amazdai, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, residente invece in provincia di Foggia. Entrambi sotto protezione umanitaria. Apparterebbero, secondo gli inquirenti, a una cellula legata allo Stato Islamico e ad Al-Qaeda. Nei loro telefoni cellulari sono state trovate foto che li ritraggono in possesso di armi, fotografie del Colosseo e del Circo Massimo, considerati tra i possibili obiettivi a rischio di attacchi terroristici. Nel loro corposo archivio anche un video girato all'interno dell'aeroporto di Bari e di un grande ipermercato della città, oltre a file audio di preghiere e slogan riconducibili a matrice islamica radicale e anche una caricatura di Barack Obama. Proprio l'analisi dei contenuti dei loro telefoni è stata la chiave di volta delle indagini, come ha sottolineato in conferenza stampa il PM della DDA di Bari, Roberto Rossi, che ascoltiamo. La maggior parte delle prove le abbiamo trovate all'interno degli smartphone o dei dispositivi elettronici. Va detto che anche qui abbiamo trovato la stessa difficoltà che ha trovato l'FBI, perché abbiamo sequestrato un iPhone che non siamo riusciti a violare. E questo è un vero problema che va posto effettivamente, perché l'equilibrio tra la tutela della privacy e la tutela della persona umana, eccetera, è un problema serio che bisogna porre a livello internazionale. Altro particolare inquietante, uno dei due fermati pochi mesi fa si era anche fatto un selfie con il sindaco di Bari Antonio De Caro durante il corteo della Marcia degli Scalzi a settembre scorso. In tutto sono 5 i provvedimenti di fermo, attualmente 3 soggetti risultano ricercati, 2 dei quali potrebbero trovarsi all'estero. È tutto per il momento. E grazie Fabrizia Ralla per questo aggiornamento. 2 degli arrestati, si diceva, avevano ricevuto protezione. Jihadisti fra i migranti, se ne parla da mesi e a sostegno di questa tesi ora sembrerebbe andare l'arresto dell'afghano Hakim Naziri, accusato di terrorismo internazionale dalla DDA di Bari, domiciliato presso il centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari Palese con lo status di protezione sussidiaria riconosciuto proprio 5 giorni fa. D'altra parte, appena 2 giorni fa, lo aveva detto dalle colonne di El País il colonnello Manuel Navarrete, dallo scorso gennaio a capo del neonato Centro Europeo contro il Terrorismo. L'Unione Europea, aveva detto Navarrete, sta inviando agenti antiterrorismo negli hotspot dislocati in Italia e Grecia con l'obiettivo di identificare sospetti estremisti pronti a colpirci. Appena 6 giorni fa, il direttore di Europol, Rob Wainwright, nel corso di un'audizione davanti al comitato Schengen, aveva dichiarato più o meno la stessa cosa. Siamo preoccupati, aveva detto, per la possibile connessione tra reti terroristiche e trafficanti di migranti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a queste notizie arrivano le prime reazioni politiche, tra queste quella del leader della Lega, Matteo Salvini, che dice quante bombe umane stanno facendo entrare in casa nostra, il governo è complice, prevedibile che ne arriveranno altre nel corso della giornata. E a proposito di terrorismo, a Monaco questa mattina c'è stata paura per quello che è sembrato un attacco e che sembra un attacco terroristico, gli inquirenti indagano. Un movente a priori islamista, così una portavoce della Procura di Monaco in merito all'aggressione avvenuta questa mattina prima delle 5 alla stazione Grafing, poco più di 30 km a sud-est di Monaco di Baviera. Un ragazzo di 27 anni, un tossicodipendente con disturbi mentali, secondo alcuni media, ha colpito 4 persone con un coltello. Una di queste è morta poche ore dopo per le ferite riportate, le altre 3 sono ricoverate. Il nome completo dell'aggressore non è ancora stato reso noto, si tratta comunque di un cittadino tedesco. Fermato dalla polizia, secondo testimoni avrebbe urlato Allah Akbar mentre si scagliava contro i passeggeri. Se il movente dovesse essere confermato, si tratterebbe della terza aggressione di ispirazione jihadista in Germania dallo scorso settembre, la prima in cui è morta una persona. Nell'agosto scorso lo Stato Islamico aveva lanciato un appello ai lupi solitari a sferrare attacchi. Nel mese di marzo una 15enne di origine marocchina aveva ferito in modo grave un agente di polizia nella stazione di Hannover. A settembre, a Berlino, un iracheno in libertà condizionata dopo un periodo di carcere per affiliazione a organizzazione terroristica era stato ucciso dopo aver ferito un poliziotto. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E andiamo alla politica, resta in primo piano la discussione sulla giustizia. Ieri l'incontro tra il capo dello Stato e il vicepresidente del CSM, oggi il colloquio tra lo stesso Legnini e il guardasigilli Orlando insieme alla giunta dell'ANM. Poi il 12 maggio l'Associazione Nazionale Magistrati incontrerà il presidente del Senato e la presidente della Camera. Il 30 salirà al Colle, una sfilza di appuntamenti con un unico obiettivo: stemperare le tensioni, ristabilire un clima sereno tra politica e magistratura. E tutto ciò in vista anche di appuntamenti cruciali, dalla legge sulla prescrizione ferma ancora nel Senato al referendum costituzionale di ottobre. Del resto è stato questo il messaggio chiaro consegnato ieri dal capo dello Stato al vicepresidente Legnini, salito al Colle per spiegare punto per punto i dettagli della seduta del Consiglio dedicata al caso del consigliere Morosini e della sua ormai famosa intervista, poi smentita al Foglio. Mentre il 30 maggio lo stesso Mattarella riceverà al Quirinale la nuova giunta della ANM presieduta da Piercamillo Davigo, incontro fissato prima che scoppiasse il caso della sua intervista al Corriere. Nel colloquio di ieri al Colle Legnini ha ribadito la sua posizione no alla partecipazione dei magistrati all'attività politica in qualsiasi forma, sì invece alla manifestazione di giudizi tecnici sulle riforme. Sul tavolo anche l'ipotesi di un codice di autoregolamentazione per i consiglieri del CSM. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E sulla battaglia tra politica e giustizia sentiamo l'analisi di Daniele Biacchessi, come ogni martedì. Quello tra politica e giustizia è uno scontro che dura da almeno mezzo secolo e ha coinvolto nel tempo maggioranze di ogni tendenza, governi tecnici, esecutivi di centrodestra e di centrosinistra. Ogni tentativo di rendere il nostro un paese normale dove le diverse istituzioni si rispettano per il bene comune è risultato vano. E l'ultima schermaglia sulla libertà di parola dei magistrati sul referendum costituzionale dimostra che il cammino è ancora lungo e tutto in salita, nonostante le dichiarazioni concilianti del presidente del Senato Piero Grasso, che invita politica e magistratura ad approfondire il dibattito senza alimentare lo scontro. Il punto oggi si chiama opportunità di intervento sul referendum da parte dei magistrati. Ma i magistrati, come professori, avvocati, tecnici, dispongono di un patrimonio di conoscenze specifiche che attribuisce alle loro opinioni un valore del tutto particolare. È dunque opportuno che si senta la loro voce su questioni appunto specifiche, senza andare troppo in là. Negli anni, nel 2000 e 2006, i giudici italiani furono attivi protagonisti nelle campagne referendarie. Allora c'erano i governi di centrodestra e dal centrosinistra nessuno affermò che l'intervento della magistratura contro le leggi di Berlusconi era inopportuno. Oggi la situazione si ribalta e una parte della magistratura, la stessa che si opponeva alle riforme della giustizia del centrodestra, si schiera oggi per il no al referendum contro i voleri di Renzi e Boschi. La realtà è che opportunità è un termine scivoloso. Il rischio è che, in mancanza di contorni fortemente delineati, si possa trasformare in un'arma da utilizzare contro voci del dissenso, oppure che il timore di divenire inopportuni induca poi i magistrati all'autocensura e al definitivo silenzio. Così dunque l'analisi di Daniele Biacchessi. Ieri sono arrivati i dati sugli sgravi per le assunzioni non dovuti, oggi l'attacco del ministro. Quanto accaduto non cambia in maniera significativa i numeri del Jobs Act, ma chi ha sbagliato viene colpito. Il ministro del Lavoro Poletti interviene così sui risultati dell'attività ispettiva dell'INPS, che ha portato alla luce 60.000 aziende e 100.000 lavoratori che hanno chiesto lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato senza averne effettivamente diritto. Noi vogliamo bene alle imprese, ma alle buone imprese che rispettano le regole, spiega il responsabile del welfare, che rivendica quindi i risultati occupazionali raggiunti dal governo, 400.000 posti stabili, che, dice Poletti, è un grandissimo risultato. Sempre in tema di lavoro poi la conferma dal ministro sui voucher, la stretta sul loro utilizzo dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri entro una decina di giorni. Infine le pensioni, sulla flessibilità in uscita, spiega Poletti, stiamo riflettendo su due parametri, costruire una soluzione economicamente sostenibile e socialmente equa. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo alla cronaca e all'attesa per la sentenza sul caso della donna aggredita con l'acido, che è diventato uno dei simboli della violenza contro le donne, Lucia Annibali. Mi aspetto che vada tutto bene, poi vediamo, aspettiamo. Mi auguro che si concluda oggi, poi dopo penseremo al futuro con calma. Con queste parole Lucia Annibali, l'avvocato di Urbino sfregiata con l'acido su commissione dell'ex fidanzato Luca Varani, ha confermato la sua presenza in aula all'udienza in Cassazione per il processo a Varani e ai due albanesi esecutori dell'agguato del 16 aprile 2013. Varani, ora recluso nel carcere di Teramo, è stato condannato in appello a 20 anni di carcere per tentato omicidio, lesioni gravissime e stalking. Per il reato più grave, la manomissione delle valvole del gas nella cucina di Lucia, i legali dell'uomo, Maisano e Brunelli, chiederanno invece una perizia. E arrivano più leggeri in Cassazione, con una pena ridotta da 14 a 12 anni, due albanesi, Talabane e Precetai, considerati rispettivamente l'esecutore materiale e il palo dell'agguato. La Cassazione dovrebbe mettere la sentenza in giornata. Il 23 maggio invece dovrebbero iniziare a Pesaro le riprese di una fiction tratta dal libro scritto dall'Annibali, Io ci sono, la mia storia di non amore, con Cristina Capotondi nei panni dell'avvocatessa. Adriana Fracchi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E restiamo sulla cronaca con una storia che ha a che fare con l'andrangheta, con la massoneria e col tentativo di controllo di una città. In manette sono finiti alcuni tra i più noti imprenditori di Reggio, che gestiscono grandi centri commerciali. I reati contestati sono associazione mafiosa, estorsione e intestazione fittizia di beni. Sequestrate 12 società e beni per un valore di circa 34 milioni di euro. E ci sono degli indagati eccellenti, tra cui il presidente della provincia Giuseppe Raffa, il consigliere provinciale Demetrio Cara, l'ex presidente della Regina Pino Benedetto, l'ex magistrato Giuseppe Tuccio e un cancelliere della Corte d'Appello. Risalta il fermo dell'avvocato Paolo Romeo, ex deputato, già arrestato e condannato per concorso esterno, considerato vicino al clan De Stefano. Romeo è stato uno degli animatori dei moti di Reggio del 70, vicino a Junio Valerio Borghese, autore del tentato golpe. Sospettato di appartenere a logge massoniche segrete e di aver avuto contatti con la mafia palermitana e con il terrorista nero Franco Freda, insieme all'avvocato Giorgio De Stefano, arrestato a marzo, avrebbe costruito una tela di rapporti con le istituzioni per favorire gli interessi delle cosche. Francesco Straticore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. E restiamo in Calabria, ma per tutt'altra vicenda, per la prima tappa italiana, e non vi sembra un gioco di parole, del Giro d'Italia. Piero Augusto Stagi, buongiorno. Buongiorno, ciao. Allora, che si parte a Catanzaro, no? Esatto, il giro riparte dall'Italia, è ripartito dall'Italia, da Catanzaro verso Praia Mare. Oggi 200 chilometri ondulati e nervosi, giornata bellissima, sole caldo, due gran premi di montagna, entrambi di terza categoria, il primo a Bonifati a 74 chilometri dal traguardo, il secondo a San Pietro a 49, ma il finale è sicuramente molto molto difficile. Infatti a 10 chilometri dal traguardo ci sarà un durissimo strappo di via del Fortino, con pendenze anche del 18%. Lo spagnolo Alejandro Valverde questa mattina, poco prima della partenza, ha detto: è un traguardo che mi interessa moltissimo, mi piacerebbe proprio vestire la maglia rosa. Quindi Marcel Kittel, tedesco, che è in maglia rosa, è avvertito, Nibali e Listornione, che cercherà in tutti i modi di difendersi su un traguardo che non lo vede particolarmente favorito. Tutto da Praia Mare, la linea allo studio. E grazie dunque a Piero Augusto Stagi, andiamo nelle Filippine ora. sarà oggi molto contento Donald Trump. L'elezione al presidente delle Filippine, non ancora ufficializzata ma ormai sicura, di Rodrigo Duterte, soprannominato il Trump dell'Asia, non ha spaventato i mercati finanziari, che anzi oggi hanno spinto in leggero rialzo sia il peso sia la borsa di Manila. Gli investitori non sembrano spaventati dall'ascesa a capo dello Stato di un personaggio populista molto controverso dalle tendenze autoritarie, che ha intercettato un forte desiderio di cambiamento e in campagna elettorale ha fatto molte dichiarazioni sconcertanti. Basti pensare che ha detto che non gli importa nulla dei diritti civili e dello stesso Congresso, ha promesso di risolvere il problema della criminalità uccidendo i delinquenti e a 71 anni si vanta di fare un ampio consumo di Viagra. Sull'economia e la politica estera, Duterte è rimasto nel vago e vari analisti ritengono che tutto sommato non tornerà l'instabilità politica e il paese potrà continuare a crescere come nei 6 anni della presidenza di Benigno Aquino III, in cui il PIL è cresciuto mediamente di oltre il 6,2%. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tokyo. Come vi abbiamo detto in apertura, oggi trasmettiamo da Cibus a Parma, la fiera dell'agroalimentare, la più importante appunto per l'agroalimentare italiano, e forse lo sentirete anche da qualche rumore di sottofondo. È una buona occasione per dire che l'agroalimentare è anche innovazione. Prodotti più salutistici e meno dannosi per l'ambiente, ma anche soluzioni pronte a stupire, come la crema di nocciole e cacao dolcificata con la carota o gli aceti con polpa di frutta. Ci sono poi il sale spray con il 75% in meno di sodio, un salame a molla e i biscotti con farine di ortaggi. Al Cibus di Parma arrivano anche l'olio di argan e quello di canapa, pianta con cui si può fare anche il pesto. A destare curiosità, le nuove confetture, quella con le bacche di açaí e quella di un frutto particolare, l'annona, di cui ci parla la produttrice calabrese Angela Zappia. Il frutto somiglia molto ad una grossa pigna verde, abbastanza sodo, appena raccolto, dopodiché diventa nel giro di 24-36 ore così morbido che può essere consumato a cucchiaio. È un gusto dalle tante note, banana, mango, a volte anche fragola si avverte. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parma. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade nella seconda parte della trasmissione, poi anche nella terza. Come sempre faremo un po' un giro d'Italia andando a cercare qualche storia che abbiamo raccolto. Ci occuperemo dei PFAS, sono delle sostanze inquinanti, una vicenda della quale già ci siamo occupati nelle settimane scorse, le sostanze inquinanti che sono state trovate nelle acque del Veneto. Adesso il Veneto chiede 200 milioni di euro al governo e si dice preoccupato perché 60.000 persone potrebbero essere contaminate. Parleremo della rivolta e delle violenze che sono avvenute nei confronti della polizia locale da parte degli abusivi di Bari e poi andremo anche a Sanremo, dove è stata organizzata una gita in moschea nell'ambito del programma di religione, ma 11 genitori non ci sono stati, hanno detto i nostri figli non ci andranno. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dei due fermati per terrorismo a Bari, abbiamo parlato dell'aggressione forse a sfondo islamista avvenuta a Monaco di Baviera, abbiamo parlato di un'inchiesta a Reggio Calabria che si muove tra 'ndrangheta e massoneria e adesso ci occupiamo di Veneto nel nostro consueto giro d'Italia, per così dire, e ci occupiamo di Veneto per una vicenda che abbiamo già toccato nei giorni scorsi e che i nostri ascoltatori ricorderanno. È la vicenda degli PFAS. Che cosa sono? Sono degli inquinanti che vengono utilizzati, allora sono delle sostanze che vengono utilizzate come per esempio rivestimento antiaderente delle padelle, per il Gore-Tex, in pesticidi, insetticidi, detersivi, pelli, e che però sono anche degli inquinanti e che è stato scoperto nei mesi scorsi si sono stati scaricati nelle acque di falda di un'area del Veneto compresa tra Verona, Vicenza e Padova. Adesso, o meglio, nella giornata di ieri, il presidente della regione Luca Zaia, che è in linea con noi, la saluto. Buongiorno presidente, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Si è rivolto direttamente al governo, ha detto qua per sanare la situazione ci vogliono 200 milioni di euro. Io vorrei però innanzitutto, Zaia, fare un punto con lei sulla pericolosità di tutto questo, perché stanno emergendo anche dettagli di una ricerca Enea Medici per l'Ambiente che parla di 1260 morti in più in 30 anni. In realtà abbiamo sentito l'Istituto Superiore di Sanità nelle settimane scorse e anche il suo assessore alla salute che ci dicevano occhio, perché non è detto che ci sia questa correlazione. Io partirei da un presupposto fondamentale, che i valori di inquinanti nel sangue non sono mai una cosa normale. Oggi noi ci siamo sostanzialmente abituati a dei limiti di legge. Dovremmo invece avere la purezza, no? Di non avere nessun modo di inquinare i nostri valori ematici. Però dico anche che i FAS sono oggetto di osservazione dal 2006 fino al 2013. C'è stato proprio uno studio, un approfondimento da parte del Ministero dell'Ambiente. La prima comunicazione che noi l'abbiamo avuto il 20 maggio del 2013, per dire che noi da quell'istante, io ero già presidente, ci siamo mossi, tant'è vero che i depuratori hanno i loro filtri, eccetera. Oggi cosa accade? Accade, primo, che cercare i responsabili e punire i responsabili, se ci sono, è molto difficile, perché a tutt'oggi il Ministero dell'Ambiente non ha ancora fissato dei parametri della serie. Le auto corrono troppo forte, cerca di multarle, ma nessuno si decide a mettere i limiti di velocità. Dall'altro c'è da dire che noi siamo preoccupatissimi per la salute dei cittadini, vogliamo che ci siano garantiti i cittadini, per cui abbiamo la necessità di avviare una campagna di monitoraggio. Proprio per questo motivo non possiamo dire oggi che siano mortali oppure no, o che ci siano dei problemi per la salute oppure no. Una grande campagna di monitoraggio che durerà circa 10 anni, che coinvolge circa 250.000 cittadini e costerà 150-200 milioni all'anno, vuol dire 1,5 miliardi, 2 miliardi di euro. Come funzionerà questa campagna di monitoraggio, Zaia? Ma guardi, con molta serietà, in piena collaborazione peraltro con l'Istituto Superiore della Sanità, che ringrazio, la volontà di farne anche uno studio approfondito, visto e considerato che oggi grande bibliografia non c'è. E tant'è vero che se dovessimo utilizzare dei parametri, c'è un paese che li ha fissati, che è la Germania, l'Italia ancora no, e questo ci crea qualche imbarazzo. E poi la campagna di monitoraggio è una campagna seria, fatta con basi scientifiche, e dove andremo a valutare tutti i valori ematici nei FAS dei cittadini, valuteremo l'epidemiologia, la presenza di alcune patologie nel territorio, verranno fatte le analisi statistiche, marker tumorali, per poi avere un controllo giustamente di quello che succede. Dall'altro anche per dar vita anche, come si può dire, a una bibliografia che magari oggi è abbastanza carente. Ciò non toglie che oggi non si possa né da un lato escludere che non ci sia nessun problema per la salute, dall'altro dire che sarà devastazione e ci saranno malattie e gente che perderà la vita a causa dei FAS. Questo non lo possiamo dire, perché evidenze scientifiche oggi non ne abbiamo a questo punto. Senta Zaia, perché in realtà qualche analisi è già stata fatta su una parte della popolazione locale, ovviamente minima, e i livelli sono risultati piuttosto alti, no? Sì, guardi, questo è assolutamente vero, e poi sono analisi che comunque sono state fatte dalla sanità, per cui vengono sempre dalla regione, se si riferisce ai dati che ha in mano la regione. Dico però che il tema della presenza dell'inquinante nel sangue, e poi oggi dobbiamo valutare che ricadute possa avere per la salute. Questo deve essere chiaro, perché non è corretto creare allarmismi, non è neanche corretto per liquidare questa partita con una pacca sulle spalle. Sappiamo... Senta, Lorenzino, Renzi le hanno già dato risposta su questo? Avete già avuto contatti, no, o no? Guardi, no, e sinceramente non cerco la rissa politica, dico semplicemente che è fondamentale che su questa partita ci siano tutti, ci sia la regione, ci siano i comuni che sono assolutamente, con molto senso di responsabilità, hanno fatto squadra assieme alla regione, e ci sia ovviamente il governo, perché se è una terra dei fuochi due, o se è uno dei grandi punti neri del territorio, è bene che sia seguita. Voglio anche però dire che il Veneto si è mosso tanto, forse si parla di FAS solo in Veneto. Però vorrei anche ricordare che dal 2006-2013 è venuto fuori, insomma, che il warning, l'allarme non era solo per il Veneto, era per molte altre regioni. Io non so cosa abbiano fatto gli altri. Bisognerebbe andare a controllare e magari ci informeremo nelle prossime settimane. Intanto grazie a Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Per introdurre il nostro prossimo argomento, la nostra prossima storia, magari facciamo sentire un audio di un po' di confusione, si fa per dire eufemisticamente, che c'è stata a Bari ieri. Sentiamo, va. Allora, l'audio che sentite è l'audio di una rivolta dei venditori ambulanti abusivi che ieri ha provocato scontri con la polizia, feriti e arresti. In mezzo a tutto questo, che si svolgeva tra l'altro per la festa patronale, la festa del patrono, la festa di San Nicola, in mezzo a tutto questo c'era Nicola Pepe, che è un collega giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Ciao Nicola, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori. Allora, cosa è successo? Allora, l'audio che hai fatto ascoltare è ovviamente è un po' è calzante rispetto a quello che è accaduto ieri sera. Quei botti, vorrei rassicurare chi ci sta ascoltando, che non sono colpi d'arma da fuoco, ma era, diciamo, i fuochi pirotecnici. Sì, giusto precisarlo. Cominciamo col dire che San Nicola, ovviamente, per chi non lo sa, è uno dei santi più venerati al mondo. E ogni anno, 7, 8 e 9 maggio, si celebra la festa patronale, una delle feste molto attese non solo in Puglia ma anche per altre regioni, tant'è che arrivano pellegrini non solo dalle regioni vicine ma soprattutto dal centro Italia e Calabria, e Calabria soprattutto. La festa si articola in 3 giorni, dico sì. Questo perché è necessario contestualizzare quello che hai detto in apertura. Sì. Dura 3 giorni, c'è un giorno del corteo storico, che è un corteo un po' sì. rievocativo della traslazione delle ossa di San Nicola, il secondo giorno, che è il clou della festa, è dedicato ai forestieri, il terzo giorno, che è il terzo giorno più sacro, è quello che è dedicato alla festa dei baresi, quindi dei baresi, riservata ai cittadini baresi. Propriamente detto. Ed è là che si è generato il tutto, no? Mi sembra di aver capito. Come dici? Non ho sentito. Ed è là che si è generato il tutto, dico, che si è, che è esploso il tutto. Sul lungomare di Bari, perché in questi ultimi 2 giorni di festa lo spettacolo pirotecnico è quello che attira molto più gente sul lungomare, perché le batterie vengono sistemate sul lungomare. Cos'è accaduto? Dal primo giorno, quello del corteo storico, ecco, era necessario fare questa premessa, c'è stato un braccio di ferro con i venditori abusivi di bibite e coloro che noi chiamiamo dalle parti nostre fornacelle. Sono fornelli abusivi con cui, anzi non tutti sono abusivi, fornelli che vendono carne e panini con carne arrostita. Cosa è successo? È successo quello che tu chiami braccio di ferro. Noi lo chiamiamo la polizia locale, che interviene per far sloggiare gli abusivi, insomma, nel senso che è quello che dovrebbe essere giusto, in sostanza. E gli abusivi si sono ribellati, in sostanza. Si sono ribellati gli abusivi perché non accettavano le regole imposte dall'amministrazione. Una parte di quella gente che era abusiva negli anni scorsi ha deciso di, diciamo, regolarizzarsi, perché va detto che molti esercenti sono regolarmente autorizzati. Questo invece è uno zoccolo duro che non ne ha voluto sapere, e fin dal primo giorno non ha accettato gli sgomberi, diciamo, da parte della polizia. L'ultimo giorno è stato, diciamo, quello un po' dove si è verificata tutto quanto. Ma dietro tutto questo mi sembra di aver capito che c'è un racket, in realtà, no? C'è un racket che ormai non è una novità, che le feste patronali siano soprattutto la gestione degli spazi pubblici destinati ai venditori di bibite o, diciamo, a questi esercenti pubblici volanti siano gestiti dalla criminalità organizzata. Bari ha delle esperienze passate in tutto questo, e quindi in questo caso i 2 fermi che sono stati eseguiti ieri sera al termine dei violenti scontri con la polizia hanno fatto emergere quello che è un quadro sostanzialmente già noto, e sì. Cioè che dietro tutto ascolta, questo c'è la mano del racket del ascolta Nicola, brevemente in 10 secondi, dice il sindaco De Caro, c'è una vera e propria battaglia tra lo Stato e alcuni gruppi criminali, è un po' forte così assolutamente no, o è aderente alla realtà? È aderente alla realtà, tanto che il sindaco è stato uno dei primi che ha denunciato questo e si è schierato in prima linea contro gli abusivi. Ed quindi, è stato anche minacciato, no? Ed è stato minacciato e la questura gli aveva anche suggerito di non partecipare alla cerimonia in Basilica, ma lui non ne ha voluto sapere e è andato regolamentata perché ha detto io non mi piego all'illegalità. Allora Nicola Pepe, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, ti ringrazio per averci aiutato a raccontare questa storia, ovviamente ampie cronache le troverete sul loro giornale, noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi nella seconda parte della trasmissione, pardon, sulle strade, in borsa, nella seconda parte della trasmissione andremo a sentire la vicenda di Sanremo, dove hanno provato a fare una gita in moschea ma 11 genitori hanno detto no, e poi continueremo a parlare di scuola, di mense scolastiche, perché ieri la Lorenzina ha detto ci mandiamo in AS. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri titoli, due fermati per terrorismo a Bari, secondo gli inquirenti preparavano attentati in Italia, avrebbero voluto colpire Roma e Londra. A Monaco di Baviera intanto un uomo aggredito a coltellate, 4 persone urlando Allah è grande, 1 vittima e 3 feriti. I furbetti degli sgravi sulle assunzioni saranno colpiti, lo dice il ministro del lavoro Poletti. Tra 'Ndrangheta e massoneria una rete per governare Reggio Calabria, 7 fermi, tra loro un ex deputato già condannato. La borsa. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci, ricominciamo parlando di scuola. Ieri noi ci troviamo qua, trasmettiamo in diretta da Cibus a Parma, l'importante appuntamento dell'agroalimentare italiano. Ieri da qua il ministro Lorenzin ha detto manderemo in AS nelle scuole per le verifiche delle mense scolastiche. Ebbene, questa mattina ne abbiamo parlato con Mario Rusconi, che è il vicepresidente dell'associazione Presidi, che era qua tra l'altro per un convegno dedicato proprio appunto all'educazione alimentare nelle scuole. Sentiamo cosa ci ha detto. Le mense scolastiche, alcune sono gestite direttamente dalle scuole, ma la maggior parte delle volte sono gestite dai comuni, dall'ente locale, e mi sembra anche giusto che ci sia un controllo, però non bisogna creare allarmismo. Fino adesso noi abbiamo avuto migliaia di esperienze di mense scolastiche, diciamo tutte di tipo positivo. Distinguerei poi quelli che possono essere elementi negativi, come per esempio inquinamento dei cibi, eccetera, che sono per fortuna salmonellosi, eccetera, molto rari, dalla tipologia invece del cibo che i bambini e i ragazzi mangiano e che spesso è molto condizionata da un'educazione alimentare non sempre, diciamo, accorta da parte delle famiglie. I bambini, i ragazzi preferiscono la patatina magari fritta con oli di varia natura piuttosto che una mela o dell'insalata. Quindi la sostanza è questa, lei dice in linea di massima nelle mense scolastiche si mangia in maniera sana. Il problema è che non mangiano in maniera sana a casa, mangiano cibi meno sani ma più saporiti, e quindi quando arrivano in mensa molto semplicemente non gli piace. Sì, anche perché spesso i ragazzi non mangiano neppure a casa, già a livello di scuola media vanno spessissimo al bar, prendono patatine, prendono appunto tutto questo cibo che magari è carico di calorie, pieno anche di ingredienti, non dico sofisticati perché non sarebbero ammessi sul mercato, ma se non altro non molto salutari. Noi sappiamo che ad esempio la campagna per la diffusione del latte o delle mele nelle scuole non ha sempre avuto un grande successo perché non c'è una grande educazione, cioè cerchiamo di riscoprire soprattutto da parte delle famiglie una buona dieta mediterranea che prevede anche che ci sia frutta e verdura oltre a tutto il resto che qualifica il nostro modo di essere cittadini italiani ma cittadini del mondo. Lei lo sa che questa posizione è fortemente impopolare, ci saranno gruppi di WhatsApp di mamme e genitori scatenati in questo momento se stanno ascoltando. Sì, senza alcun dubbio, però io dico che genitore è una professione che non si impara facilmente, non esistono veri e propri corsi di genitori, ma bisogna avere un grande senso di responsabilità, cioè il futuro cittadino è quello che viene in qualche modo instradato dalla famiglia ad una buona educazione alimentare, ad una buona educazione civica in generale, e naturalmente in questo senso la scuola può spesso intervenire. Delle volte devo dire che la scuola e gli insegnanti si trovano proprio come contraltare, qualche volta negativo, proprio le famiglie. E visto che stiamo parlando di scuola continuiamo a parlare, ma spostandoci a Sanremo, dove sta facendo discutere la gita organizzata, la visita organizzata dalla scuola primaria Rodari nel dirimpettaio centro islamico Al-Hidaya, una gita organizzata per giovedì nella quale, insomma, che cosa è successo? Si è deciso di organizzarla nell'ambito del programma di religione, 11 genitori hanno detto no. Silvia Colombo, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente, all'interno del quale c'è anche la scuola primaria Rodari. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Allora, come mai hanno detto no? Hanno detto no perché non ritenevano, non condividevano l'idea di andare in un centro religioso. Secondo me l'impostazione che avevano dato gli insegnanti è una buona impostazione, perché si basa sulla conoscenza delle strutture e delle realtà che ci sono sul territorio. La moschea è stata inaugurata pochi mesi fa, la presenza del sindaco e anche la presenza del centro islamico, intendo, e sì, anche la presenza del vescovo, e quindi una conseguenza naturale era che anche gli alunni della scuola più prossima a questo centro potessero visitare e rendersi conto di altre realtà. Esatto, anche solo per curiosità, per capire come funziona. Ma voi ne avete parlato poi con i bambini, insomma, al di fuori, al di là, sì, di quello che hanno detto i genitori? Sì, le insegnanti, che sono insegnanti abituate a colloqui e a progetti di integrazione, quindi sviluppano questi temi un po' come tutto l'istituto e un po' come la scuola è abituata a fare per la sua stessa vocazione, quello di favorire l'integrazione e il dialogo, quindi hanno anche di fronte al diniego delle famiglie, rispettabilissimo, hanno lei ci ha visto un po' di razzismo in questo diniego? No, io non stigmatizzerei. Un po' di paura, forse, semplicemente. Può anche essere, può darsi, sì. Però che è anche un sentimento umano, no? Non, sì. Cioè, come comunità civile possiamo avvicinarci alle altre realtà e approfondire la conoscenza, ecco, no? Non vedrei subito una forma di razzismo, non di la stigmatizzerei così. Chiaramente. La ringrazio, grazie Silvia Colombo, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente. Traffico Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.